Attenta, Guffetta. Guffetta, togli la radio. Ehi, hey, you. Attenta, Guffetta. Attenta, Guffetta. Graziano, ci sei, Graziano, cambio. Luca. Tu sei il letargo 7, eh? Luca. Graziano. Sì. Che? Ciao Lu. Grazia. A portare fiori a Santo Baul. Non ti sentono. Non mi senti? Graziano, sono il solbatto. Poi Maria, ma solbatto sì, eh. E perché c'è Santo Lu, cosa c'è? Illuminami. E che facendo? Ehi, giocato me la stava una nell'altra. Che consuma, Giovanni? Ehi, là. Oh, voi sì che me la fottite, voi in tre, da fabbricare, due chiacchiere qua, boh. Vabbè, domani a me andare a giocare a Bacchisso, va. Siamo i 27, dottore. Aspettate a Bacchisso, tanto il PMR rovina un'anima, così che aveva atteso la 27. Vabbè, stavo chiamando allo chef, ma non mi ha riposo, boh. Niente da... Ehi, siamo là, là. Ok, Lu. Ehi, ah. No.